per la strada c'è carnevale, che ti fa male restare qui. E anche se impazzisci per qualche ora, se lei ti chiama non dille sì. Tanto poi finite sempre per fare l'amore, e se questo tu vuoi, falle un regalo ma non il cuore, perché il suo corpo non vale poi tanto. Falle un regalo ma non il tuo pianto, pulisci lo specchio d'amore appannato. C'è chi ti ha amato e chi non t'ama più, non t'ama più. Fatti coraggio, non ti ama più, se la porta aprirai, ancora un poco tu la perderai. Toc, toc, toc, toc, io non voglio però. Toc, toc, toc, toc, se non smette aprirò. Toc, toc, toc, toc, le mie braccia sarai. Toc, toc, toc, toc, un peccato di dormire, non ho più voglia, sono la foglia che manca a te, e per ritornare da spinello a fiore, ed è per questo che starai con me. Non t'amo più, fatti coraggio, non ti amo più, se la porta aprirai, ancora un poco tu mi perderai. Farò vendetta, la mia vendetta sarà il perdono. Amore, amore, amore, non avere fretta, dietro la porta non c'è nessuno.